La religione minoica a Creta. Gli sconvolgimenti che si verificarono in Europa in seguito alle invasioni indoeuropee dal 4300 al 2900 a.C. trasformarono molte regioni in tempi e in modi diversi. Una di queste aree fu l'Egeo, a sud e a est della Grecia. La civiltà egea era composta da molte piccole isole del mare Egeo, tra queste la grande isola di Creta, dove la religione e la struttura sociale dell'Europa antica e dell'Anatolia rimasero solide, come attestano l'arte, la ceramica, l'architettura e le usanze funerarie. Creta e altre isole Egee fanno parte di quelle zone che non subirono le invasioni delle tribù indoeuropee durante il terzo millennio. Queste isole dovettero probabilmente la loro sopravvivenza al fatto che i popoli indoeuropei dipendevano in modo molto determinante dal cavallo e non avevano grande dimestichezza con la navigazione. La distanza di Creta e delle isole dell'Egeo, combinata con la difficoltà di trasportare sul mare cavalli e soldati, contribuì alla continuità e alla conservazione della cultura indigena a Creta e nelle altre isole dell'Egeo. La civiltà minoica in Creta raggiunse il suo apice ben 2000 anni dopo che la gran parte delle culture antico-europee matrifocali dell'Europa erano state distrutte dall'impatto con le invasioni indoeuropee. La civiltà cretese è la cultura più conosciuta tra quelle dell'Egeo. Viene detta minoica dal mitico re Minosse di Cnosso. L'arte e la religione di Creta, così ispirate alla dea e piene di vita, derivano dal ceppo anatolico matrifocale. Dal momento che i minoici vissero circa 2000 anni dopo il culmine della civiltà antica europea, essi possedevano tecnologie artistiche e architettoniche più avanzate rispetto agli abitanti dell'Europa neolitica centro-orientale. Per questo l'espressione della loro civiltà e della loro religione sembra diversa. A partire dal 1700 a.C. i minoici avevano due sistemi di scrittura. Il primo comprendeva una serie di simboli pittografici e fu chiamato geroglifico minoico. Il secondo sviluppò una serie di segni scritti linearmente lungo tavolette d'argilla e fu chiamato lineare A. Questi segni appartengono a una lingua non indoeuropea. C'è una terza tabella di scrittura minoica, la lineare B, forse una forma primitiva del greco antico. Gli abitanti delle città-stato minoiche vivevano, a quanto sembra, in una generale condizione di pace. Nessuna città minoica possedeva grandi mura difensive. I complessi templari. I grandi edifici centrali trovati nelle città minoiche erano delle meraviglie architettoniche. La prima e più grande costruzione, scavata presso Cnosso, ricopriva circa 2 ettari di terreno, aveva 2 o 3 piani e conteneva ampi lucernari. Gli archeologi etichettarono questi edifici come palazzi, in analogia con i grandi megaron della Grecia continentale e con i palazzi regali delle culture medio orientali, ma come si è già fatto notare, il concetto di palazzo, megaron o casa del grande uomo, consono alla nobiltà guerriera, non esisteva nell'Europa antica. In ogni caso, dato che gli archeologi non hanno trovato centri amministrativi separati, sembra che le funzioni amministrative e quelle religiose fossero insieme. Queste costruzioni erano infatti complessi religiosi, amministrativi e economici, non erano palazzi. Finanche i primi archeologi, mentre chiamavano palazzi questi edifici, notarono le grandi porzioni delle costruzioni che erano state dedicate all'uso rituale. La funzione del palazzo di Cnosso è stata probabilmente molto simile a quella di un monastero medievale, in quanto raccoglieva grandi ricchezze ed era retto da una grande gerarchia, fungendo anche da centro di ridistribuzione delle ricchezze. A presiedere l'intero complesso erano probabilmente delle sacerdotesse. Questi magnifici complessi erano decorati con scene onnipresenti di devozione nei confronti della dea, e racchiudevano un sistema simbolico interamente orientato al femminile. Insieme con l'impraticabilità del termine palazzo, è anche divenuto ovvio che a Cnosso non regnava né un re sacerdote. In effetti, il termine minoico è inappropriato. All'inizio si immaginò il leggendario re Minosse assiso al trono di Cnosso, molto prima che si potesse ricostruire la vera natura della cultura antico-europea e minoica. La precoce correlazione tra la regalità e il tempio di Cnosso costituì un ostacolo enorme per la percezione della cultura minoica nella sua essenza reale. La detronizzazione successiva del re Minosse rivoluzionò il nostro punto di vista su questa cultura, in effetti prevalentemente orientata al femminile. Come scrive Dorothy Cameron nel suo The Lady and the Bull, An Interpretation of Minoan Art, la prova dell'influenza e della sensibilità femminile nell'arte e nella religione minoiche, nei dipinti parietali che raffigurano cerimonie connesse alla devozione di una divinità femminile, nelle sacerdotesse che compongono il suo seguito, rappresentate in statuette e in dipinti e in migliaia di sigilli di pietra che raffigurano scene in suo onore, è troppo forte per essere respinta. La presenza del maschio, come mostrano i sigilli e i dipinti parietali, era solo di tipo devozionale. Il devoto era mostrato nei sigilli di pietra, il più delle volte in atteggiamento di adorazione nei confronti di una divinità femminile nei pressi di un santuario. Nei dipinti parietali, una processione di maschi che portano oggetti e rituali solitamente segue due figure femminili. Fu solo in seguito al lento assorbimento delle influenze micenee provenienti dalla Grecia classica e dagli invasori che questa caratteristica interpretazione del maschio si trasformò in ciò che poi venne descritto come una presenza militaristica. Quindi gli scudi incominciarono a sostituire gli oggetti rituali e fu data meno attenzione agli aspetti religiosi, un'influenza che iniziò subito dopo che si raggiunse il culmine della cultura artistica minoica. È stata notata la disparità tra il blocco occidentale e quello orientale del Tempio di Cnosso. Il blocco occidentale del complesso rispecchia la rigenerazione, dalla morte o dall'inverno, mentre la porzione orientale incarna la nascita e il parto. Questi temi hanno i loro paralleli anche a Malta, per esempio, dove i templi disposti a coppie differivano tra loro per funzioni. È stato osservato che a Cnosso l'ala occidentale del palazzo fosse poco più che un agglomerato di piccoli santuari a cripte incolonnate destinate all'uso rituale. È stato già detto che nella credenza dell'Europa preistorica le virtù sacre uterine e rigenerative delle caverne e gli sforzi degli antichi europei per edificare templi di rigenerazione che imitassero le grotte erano un fatto acquisito. Le oscure cripte incolonnate del complesso templare di Cnosso, come la caverna e l'utero, incarnavano virtù rigenerative. Queste cripte conservavano depositi di oggetti preziosi di culto e tracce di offerte di grano e di animali. Il simbolo dominante era l'asciapenne, reso simbolicamente con due triangoli uniti al vertice. Le cripte di Cnosso non avevano tracce di resti umani, ma le loro caratteristiche uterine ricordano molto le tombe minoiche, che presentano gli stessi simboli di rigenerazione, asce bipenne e corni o bucrani. Le colonne, trovate nei santuari a cripta, sono altri importanti simboli di rigenerazione. Sono simbolicamente collegate alle stalagmiti delle caverne rituali. Entrambe simboleggiano il sorgere dell'energia terrestre. Altrove, nell'arte minoica, pilastri e colonne si alternano con l'albero della vita o con la dea stessa. Sappiamo che nel Neolitico il triangolo e l'asciapenne erano simboli primari della dea della morte e della rigenerazione. Entrambi erano i simboli del divenire. Ai tempi dell'Europa antica, le immagini dell'ascia decoravano le pareti delle tombe megalitiche e i menhir dell'Europa occidentale. Nel tempio occidentale di Cnosso ci sono altri simboli di rigenerazione: torsi di corna di capriolo, intarsi di osso o di avori modellati secondo il motivo della melagrana, il che conferma una volta in più il simbolismo della rinascita. Tra gli esempi più belli dell'arte minoica ci sono deliziose statuette di ceramica della dea serpente o della sua sacerdotessa. Trovate in un deposito scavato sul pavimento, un'area in cui venivano raccolti gli oggetti sacri, queste statuette mettono in rilievo ancora una volta la rigenerazione e l'aspetto ctonio. Il simbolismo delle cripte minoiche fa pensare a riti di rinnovamento. In più non vanno esclusi riti individuali di passaggio, cerimonie nelle quali l'iniziato sperimentava una rinascita o una guarigione. Credo che i rituali che avvenivano nelle buie cripte del Tempio di Cnosso siano da collegare, da una parte, con quelli celebrati 1 o 2 millenni prima nei grandi santuari funebri dell'Europa antica, come Newgrange e Knowth in Irlanda e l'ipogeo di Al Safleny a Malta, dall'altra, con quelli che dell'epoca classica, come per esempio i misteri di Eleusi. Le cerimonie iniziatiche ad Eleusi, infatti, accompagnate da musiche e danze, riproducevano simbolicamente la morte e la rigenerazione. Mentre i santuari a cripta dell'ala occidentale del complesso templare di Cnosso erano caratterizzati da un'atmosfera buia, uterina, consona ai riti rigenerativi, la parte orientale si apriva su un ambiente del tutto diverso. Quest'ala non aveva interrati né zone buie. Al contrario, rifletteva luce, gaiezza e colori sgargianti. Conteneva atri, sale di ricevimento, aree a cielo aperto e il cosiddetto megaron della regina, con affreschi e rilievi dipinti. I vasi culturali erano decorati con seni, i soffitti con seni e spirali, le pareti con delfini, spirali e rosette. Quest'ala serviva per celebrare la nascita e la vita. Una gigantesca statua di legno della dea, alta circa 3 metri e decorata con boccoli di bronzo, stava nel grande atrio orientale. Va messa in relazione, per esempio, con l'immensa statua della dea nel tempio di Tarxien, a Malta. La presenza della grande statua della dea nell'atrio orientale conferma che la parte orientale era dedicata alla dea. I seni bene in vista, i delfini, le rosette e le spirali danno prova del fatto che la dea veniva venerata nel suo aspetto di elargitrice di vita. Il trono riproduce la forma della sommità di un monte che a sua volta rappresenta la dea stessa. Infatti, il colle con una protuberanza, o omphalos, è ben noto per essere un simbolo della dea anche nell'Europa occidentale megalitica. Il sedile del trono raffigura un onfalos con la luna, piena, simboli di forza vitale concentrata. Luna, triadi, spirali, gigli, onfalos, tutti tipici simboli della dea ereditati dalle epoche preistoriche. La sala del trono, con ogni evidenza, serviva a scopi religiosi, non profani. Ci si può facilmente fare un'idea dei rituali che vi venivano svolti. Nell'anticamera adiacente la sacerdotessa indossava le vesti cerimoniali e simboliche. Compariva sulla porta, fiancheggiata dalle sfingi, e poi avanzava verso il trono, dove riceveva le offerte che venivano poi fatte passare dalla stessa porta in una processione che partiva dalla sezione rituale. Una serie di stanze vicine al vestibolo, con tavoli, rami, bassi sedili di pietra. La sacerdotessa diventava la rappresentazione terrestre della dea. Una vasca lustrale in mezzo alla stanza scendeva di diversi gradini. La sua presenza rivela un rituale che probabilmente comprendeva la discesa con i lavacri e l'unzione di oli profumati e la risalita e il rinnovamento. A Cnosso e in altri templi minoici si trovano molte vasche lustrali, dalle quali si può dedurre che i fedeli della dea svilupparono un rituale di purificazione e rinnovamento che fu praticato con continuità. Le vasche rituali hanno dei precedenti anche a Malta, Newgrange e Knowth in Irlanda nel IV millennio avanti Cristo. Questo genere di rituali fu un altro degli aspetti che la religione minoica ricevette in eredità dall'Europa antica. I grandi edifici di Cnosso, Festo, Mallia e Zakros, in Creta, sembrano aver svolto prevalentemente la funzione di templi della rigenerazione che riguardava il passaggio dalla morte alla vita. Veniva gioiosamente celebrata la nascita e lo sbocciare della vita. La presenza della dea irraggiava dalle due sezioni, quella occidentale e quella orientale, attraverso i suoi troni, le sue sculture e soprattutto il suo simbolismo. I complessi templari minoici raggiunsero dimensioni architettoniche gigantesche dalla complessità cerimoniale estremamente elaborata, ma essenzialmente continuarono ad essere analoghi ai templi della rigenerazione dell'Europa e dell'Anatolia risalenti a 4.000 anni prima. Le grotte santuario. I fedeli utilizzarono le grotte come santuari dal Paleolitico superiore fino a tutto il Neolitico. Queste grotte costituiscono una parte rilevante dei reperti archeologici minoici. Non tutte le caverne erano sacre. I minoici consideravano importanti solamente quelle caverne che avevano particolari caratteristiche, ovvero quelle con camere, corridoi, stalagmiti e fonti d'acqua sorgiva. La loro forma peculiare, l'oscurità e le pareti umide, connettevano simbolicamente le caverne alla tomba e all'utero. Le cripte incolonnate assomigliavano a delle caverne artificiali, ma le caverne stesse costituivano dei santuari religiosi ancora più coinvolgenti e potenti delle cripte, poste come erano in luoghi remoti, decorate in modo fantastico con stalattiti e stalagmiti e con i loro interni oscuri illuminati solamente da torce o lampade. Alcuni templi giganti conservano ancora il loro santuario cavernicolo. Il tempio di Festo, per esempio, è collegato alla grotta di Camares. Cnosso si servì dell'enorme grotta di Scotino o Scoteino e di quella più piccola di Eileitia, entrambe luoghi di culto particolarmente importanti nella regione. Sembra che venissero organizzati pellegrinaggi che partivano dal palazzo e andavano verso questi luoghi sacri, queste caverne. Sono stati trovati diversi manufatti religiosi con motivi che richiamavano la rigenerazione e che si trovano nelle tombe e nelle cripte. Tra i manufatti trovati nei santuari delle caverne ci sono tipiche immagini della dea della morte e della rigenerazione, per esempio corni sacri, asce bipenne, placchette con inciso l'albero della vita al centro di corna sacre. Caverne cretesi sono chiaramente associate al parto. La grotta di Eileitia ad Amnisos e la grotta di Dicte nella pianura di Lasiti. Nelle caverne venivano con ogni probabilità svolti riti del rinnovamento e celebrazioni della nascita del fanciullo divino. Santuari di montagna. Come quelli delle caverne, anche i santuari della montagna evocavano un senso di potenza e di sacralità. Secondo le leggende, molte divinità vivevano sulle cime delle montagne e perfino in epoche recenti alcuni contadini greci credevano che una grande dea dimorasse in quei luoghi. Gli archeologi hanno scoperto molti templi assai imponenti sulle cime dei monti cretesi. Resti di offerte votive sono stati trovati all'interno di crepacci e baratri profondi. Resti di cenere attestano che in occasioni particolari venivano anche accesi grandi falò. Alcune statuette femminili hanno dei serpenti sulle loro corone o sui loro copricapi. Molte altre statuette sembrano semplicemente rappresentare i devoti con le braccia incrociate sul petto. In alcuni tempi, gli scavi hanno portato alla luce piccole miniature di donne partorienti. Questi santuari sulle montagne evidentemente offrivano guarigione e assistenza nel parto, oltre a servire da sedi di importanti riti di rinnovamento della vita. La dea, rappresentata sui sigilli, in piedi, in cima a una montagna con in mano un simbolo di potere, è ovviamente la medesima rigeneratrice e guaritrice trovata nelle cripte e nelle grotte e nei templi. Dai resti ritrovati si evince che le offerte votive potevano essere di grano, legumi, olio, miele, latte e lana. Il balzo del toro o taurocatapsia. Probabilmente i giochi del toro si svolgevano nelle corti centrali dei complessi templari. L'attenzione per il toro e le sue corna, simbolo della dea, dell'utero e delle sue ovaie, dimostrata dai minoici, rispecchia una tradizione dell'Europa antica, dove il toro era considerato sacro alla dea della morte e della rigenerazione. Bucrani e corna di toro erano i simboli dei suoi poteri rigenerativi, presenti nelle tombe e nei templi della rigenerazione. Nella Creta minoica, la presenza del toro e delle corna in così tanti aspetti della vita esprime semplicemente la credenza diffusa nella rigenerazione. Sulle pareti dei templi e dei palazzi di Cnosso vi sono splendide rappresentazioni che mostrano il toro con le zampe anteriori appoggiate su un grande blocco rettangolare e una giovane o un giovane che volteggia sulle sue corna. L'affresco del balzo del toro nel labirinto di Cnosso mostra tre acrobati in azione. Un giovane dipinto di nero che spicca il volo in direzione delle corna del toro sopra la sua schiena, con le mani appoggiate sulla groppa e il corpo arcuato sulla coda. E due ragazze dipinte di bianco, una che stringe le corna del toro, mentre l'altra con le braccia spalancate aspetta di ricevere il giovane. La dea minoica più celebre, ritratta in sigilli, anelli, affreschi e sculture, è la giovane dea che può essere identificata con la neolitica dea della rigenerazione. I suoi simboli sono sempre simboli rigenerativi, asce bipenne, farfalle, bucrani e alberi o colonne della vita. Il suo abito è in armonia con il paesaggio acquitrinoso. Grandi cerchi d'oro le pendono dalle orecchie. Si tratta della matrona della natura, che allude alla fecondità e alla primavera. La dea, giovane, forte, con il seno scoperto, è ritratta anche sui sigilli, fiancheggiata da grifoni o leonesse. Il sigillo di Cnosso la mostra in piedi in cima a un monte che regge uno scettro. Un devoto la saluta e dietro di lei si intravedono le colonne di un tempio, forse lo stesso di Cnosso. Su altri sigilli e anelli la dea, seduta, riceve dei doni. Sul sigillo di Cnosso una donna, probabilmente una sacerdotessa, le porge un grande vaso con due manici circolari. Nella scena la dea sta seduta su un albero lussureggiante e si tiene i seni nudi con la mano sinistra. Tra lei e la sacerdotessa c'è una grande ascia bipenne, mentre in cielo si vedono una luna crescente e il sole, o forse una luna piena. Un simbolo minoico molto utilizzato, collegato alla dea della rigenerazione, è la labris o ascia bipenne, che compare di frequente nelle cripte, nelle tombe e nei templi, spesso rappresentata mentre spunta dal mezzo delle corna sacre del toro. È il simbolo principale di questa dea nel suo aspetto rigenerativo. La grande dea minoica sopravvisse lungo i periodi successivi della dominazione achea e della Grecia classica. Vi è anche spesso il simbolo della rete, che compare già nel Paleolitico e prosegue lungo le ere neolitiche minoiche, che funge da collegamento tra il parto, l'acqua della vita e il liquido amniotico. Il nome della grotta Dicte e della montagna Dicte molto probabilmente derivano dal culto di questa dea nelle grotte o sulle cime della montagna. La connessione con il fluido vitale conduce al suo aspetto di dea del parto, Eileitia. Questo nome è collegato alla grotta di Amnisos. Artemide, venerata sia nella Grecia classica che in quella ellenistica, è la stessa dea ed è associata con la grotta di Acrotiri nella Grecia occidentale. Questa grotta è chiamata anche Arcudia, grotta dell'orso. A tutt'oggi ancora luogo sacro alla Vergine che ha un nome locale, Panagia Arcudiutissa, Nostra Signora o Dolce Orso. Come si è già avuto modo di notare, anche la Grecia classica collegava Artemide con l'orso. In questo senso si può intendere un legame tra Artemide e l'orsa madre, ben evidenziato nell'arte scultorea del Neolitico. La dea è giovane e bella ed è la dea del parto. Ha il potere di stimolare la crescita ed è la madre orsa che accudisce il fanciullo divino. Vi è poi anche l'immagine della dea Avoltoio, che presentava un aspetto della dea della morte, secondo i minoici. Questa dea può avere grandi ali, seni nudi, segno che non si tratta solo della dea della morte, ma anche della rigenerazione. E infine la dea serpente dei Minoici ha membra di serpente oppure spire di serpente sulle sue corna, come nel Neolitico. Queste dee erano ben agghindate, con seni nudi e serpenti che strisciano sulle loro braccia, attorcigliati alla vita o tenuti in mano. La dea gravida della vegetazione, delle cui statuette sono ricolmi i siti dell'Europa neolitica, è assente nei resti archeologici di Creta, ma il suo ricordo è conservato nelle leggende e nelle fonti scritte che documentano di due dee cretesi della vegetazione, Ariadne e Demetra. Secondo l'inno omerico, a Demetra questa dea giunse in Grecia da Creta. Questa dea moriva ogni anno. Nei miti greci di Demetra e Persefone, madre e figlia, quest'ultima è lo spirito del grano e muore e rinasce. I semi ricavati dal raccolto venivano tenuti in fosse sotterranee in modo che potessero essere resi fertili dal contatto con i morti. Persefone era il simbolo della vegetazione morente, come sua madre, Demetra, rappresentava la vegetazione che rinasceva e cresceva. I riti funebri. L'usanza della sepoltura collettiva a Creta è riconducibile alle sepolture collettive dell'Europa occidentale megalitica del IV e del III millennio avanti Cristo. Come nel caso dell'Europa occidentale, le sepolture rispecchiano una società fondata sui clan. Qualche tomba collettiva ha camere incolonnate che ricordano le stalagmiti delle grotte e le cripte incolonnate. Le offerte lasciate fuori dalle tombe indicano feste funebri o memoriali celebrate in giorni particolari, dopo la deposizione delle ossa. Sono state anche ritrovate tazze per la libagione che indicano festeggiamenti. Il mutamento dalla sepoltura collettiva tribale al seppellimento individuale coincide con la comparsa delle influenze micenee provenienti dalle invasioni della Grecia continentale. La caduta della cultura minoica. La civiltà minoica raggiunse l'apice del suo sviluppo all'incirca nei 2 secoli e mezzo tra il 1700 e il 1450 a.C., nonostante i disastri naturali e quelli causati dall'uomo che colpirono l'isola di Creta. Uno dei più terribili disastri naturali documentato in epoca storica ebbe un suo ruolo nella disfatta di Creta. A circa 112 chilometri a nord di Creta c'è l'isola di Tera, che era un avamposto della cultura minoica. L'isola in sé era in realtà la cima di un vulcano inattivo da lungo tempo. Probabilmente tra il 1628 e il 1627 a.C. il vulcano eruttò, sprigionando una potenza 1883 volte superiore a quella dell'esplosione dell'isola di Krakatoa in Indonesia. L'esplosione di Krakatoa creò onde gigantesche che devastarono vaste zone delle isole del Sud Pacifico. L'eruzione vulcanica di Tera distrusse gran parte dell'isola, lasciando un cratere vulcanico pieno d'acqua largo quasi 13 chilometri e profondo 400 metri. L'esplosione del vulcano di Tera produsse una gigantesca onda di maremoto che si abbatté sulle coste continentali della Grecia e sulle sponde settentrionali di Creta, dove c'erano molte grandi città minoiche. Ma l'eruzione non annientò completamente la cultura minoica. I centri abitati dell'entroterra e sulla costa meridionale rimasero al sicuro. Sulle rive devastate a nord, gli scavi trovarono conferma di nuovi strati di costruzioni sopra le macerie. Dunque, per almeno 50 anni dopo l'esplosione, i minoici continuarono a riedificare la loro cultura. Benché la cultura minoica sia stata probabilmente indebolita dalla catastrofica esplosione di Tera, il suo estremo collasso fu causato dall'intervento dell'uomo, non della natura. Per diversi secoli, Creta era scampata al destino della Grecia continentale, che era stata invasa dalle tribù indo-europee. Ma attorno al 1450 a.C. il caos assalì Creta, non solo lungo le coste, ma lungo l'intera isola. Tutti i centri mostrano segni di incendi e distruzioni, come in seguito a saccheggi da parte di invasori. Molti luoghi riproducono il modulo che si riscontra nei precedenti siti dell'Europa antica. Gli strati antichi europei si interrompono bruscamente, compare uno strato distrutto e subito dopo una nuova occupazione, con stili architettonici, artistici e manufatti completamente differenti. La religione greca è la fine della cultura matrifocale, il periodo miceneo. La maggior parte degli studiosi concordano sul fatto che i micenei, la cui cultura si formò in Grecia sull'onda delle prime incursioni indoeuropee, avessero conquistato le città minoiche cretesi, intorno al 1600 a.C. I loro centri erano costituiti da città estremamente fortificate, la più importante fu Micene, da cui prende il nome la civiltà micenea. I micenei però adottarono molti elementi della cultura minoica. Non c'è dubbio riguardo alle origini indoeuropee dei micenei. Essi glorificavano la guerra e i guerrieri maschi detenevano il predominio nelle società. Proseguendo la tradizione funebre Kurgan, proveniente dalla Mongolia e dalle steppe del Caucaso, le tombe micenee sono prevalentemente sepolture di maschi guerrieri con le loro armi, il pugnale e la spada, e con notevoli manufatti d'oro. Il loro pantheon presentava divinità maschili guerriere. Nel contempo, però, i micenei mantennero con una certa tenacia alcune credenze minoiche tipiche dell'Europa antica, le cui dee e i simboli, la matrona degli animali e delle montagne, le dee dei serpenti e degli uccelli, i corni di consacrazione e le asce bipenne sono presenti nell'arte continentale micenea. Nei santuari si possono trovare in contemporanea divinità maschili e femminili, con le divinità femminili che sorpassano di numero quelle maschili. Migliaia di statuette della dea, i cui tratti derivavano direttamente da quelli dell'antica Europa. I micenei rappresentano un'importante fase di transizione tra la cultura ginecocentrica dell'Europa antica e la cultura della Grecia classica, dove l'elemento maschile giunse a dominare in senso quasi totale. I micenei, essi stessi discendenti da tribù indoeuropee del nord dell'Europa centrale, alla fine dovettero soccombere agli indoeuropei più aggressivi. Attorno al 1200 a.C., una nuova ondata di popoli dall'Europa centrale si abbatté sulla Grecia e sulle isole dell'Egeo. Da qui gli abitanti della Grecia e delle isole caddero in un'epoca buia dalla quale, secoli dopo, sarebbe sorta la Grecia classica. Durante quest'epoca buia, che durò alcuni secoli, la scrittura venne a cadere e scomparve. Vennero meno le opere d'arte, tanto pregevoli della tradizione minoico-micenea, e le grandi fortificazioni collinari dei micenei, devastate dalle invasioni, caddero in rovina. I greci post-micenei vivevano in piccoli sparuti centri abitati. Molte sedi cultuali micenee, come i grandi santuari di Delfi e di Eleusi, continuarono il loro esercizio durante i secoli bui, per poi raggiungere il culmine del loro sviluppo nell'epoca classica. Soprattutto si ha un'immagine chiara dell'indebolimento del ruolo della donna nella società, e questo è il mutamento più radicale. Nelle primitive civiltà minoica e micenea, la parte femminile svolgeva un ruolo centrale, almeno nella Creta minoica, le donne occupavano posizioni sociali significative. Ma questo cambiò drammaticamente nell'età classica. La società ateniese classica escluse dalla vita pubblica le donne, che dunque non partecipavano quasi a nessuna delle attività significative sociali, politiche o intellettuali. Le dee greche, ben lontane dal ricoprire ruoli paragonabili a quelli delle loro antenate minoico-micenee, erano subalterne alle divinità maschili. Al posto di una forza centrale femminile alla guida del cosmo, il dominio era in mano alle potenze maschili. Il pantheon gerarchico greco rispecchiava la società greca, maschilista e maschiocentrica. Zeus, la divinità maschile dominante, discendeva da un dio guerriero tipicamente indoeuropeo. La dea vivificatrice dell'Europa antica progressivamente si trasformò assumendo tratti indoeuropei. Le dee che in precedenza avevano ricoperto ruoli importanti adesso diventano le mogli o le figlie degli dei. Alcune leggende narrano di rapimenti di dee da parte di Zeus o di altri dei, il che può essere interpretato come un'allegoria della sottomissione della religione locale della dea da parte del pantheon patriarcale degli invasori. Alcune delle dee ereditate dall'antica Europa furono militarizzate e divennero le dee della guerra. Benché la dea avesse perduto il suo posto primario nel vissuto religioso di queste epoche, tuttavia nella Grecia classica si continuarono a venerare dee potenti. Ecate discendeva dalla dea antica europea della vita, della morte e della rigenerazione. È sempre stata una divinità molto potente, veniva adorata con danze estatiche. Elargitrice delle nascite, protettrice della maternità, la vergine giovane forte, ma anche la megera terribile e spaventosa. Questi aspetti sono analoghi alle fasi della luna, crescente, calante e piena, e al ciclo di vita, morte e rigenerazione. Ecate incede nella notte, seguita dai suoi cani. Le statue di Ecate avevano un enorme potere magico. Artemide era la dea della primavera, dava la vita a tutta la natura. Era venerata come matrona delle montagne, delle foreste, delle pietre, degli animali e delle acque termali, soprattutto in Arcadia, una regione in cui l'influenza indoeuropea fu meno pronunciata che in altre aree della Grecia classica. Viveva nelle foreste selvagge, incontaminate, circondata da cervi e da cani. Era la signora della natura libera, vergine e intatta. Sotto forma di fanciulla, correva lungo le montagne insieme con le sue ninfe, danzando e scagliando le sue frecce, esultando nella caccia. Le sue ninfe abitavano i ruscelli, i fiumi e i fiori. Era la Potnia Theron, la signora delle fiere, protettrice del parto. L'artemisia, un'erba medicinale che favoriva le doglie, era pianta sacra ad Artemide. Diana, l'equivalente romana di Artemide, era colei che apre l'utero. Le offerte ad Artemide comprendevano pesi di telaio, fusaioli e statuette sedute nella posizione del parto. Artemide era una parca che tesse e fila la vita umana. L'associazione dell'Artemide protettrice delle nascite con l'orso costituisce un altro collegamento con la religione primitiva della dea. Le virtù materne dell'orsa, che è uno strenuo difensore e un'attenta accuditrice dei suoi cuccioli, resero questo animale, fin dal Neolitico, un doppio della dea protettrice delle nascite. Artemide rappresenta anche la rigenerazione. Come già nel Neolitico, i suoi simboli sono l'ape e la farfalla, o quegli animali associati alla vulva, al feto o all'utero, come la rana, il rospo, il porcospino, il pesce e la lepre. Atena. Atena rappresenta un'altra divinità discendente da prototipi antico-europei o minoici. Atena discendeva dalla dea serpente e dalla dea uccello dell'antica Europa. Era la protettrice della comunità e la sostenitrice della vita. A partire dal V secolo a.C., divenne stabilmente la dea ufficiale della polis ateniese, a cui diede il nome. Per finire, Era, la romana Giunone. Era una dea grande, maestosa, bella, con una veste modellata a rete. Era dall'occhio bovino, veniva chiamata. Sappiamo che i bovini, animali con le corna, statuette antropomorfe con grandi occhi e statuette di serpenti, sono da annoverare tra le offerte a lei dedicate ed erano simbolo della dea dell'antica Europa. Era sia la sorella maggiore che la sposa di Zeus. Molte rappresentazioni pittoriche continuavano a mostrare Era che occupava il trono, mentre Zeus restava in secondo piano. La si può anche vedere in alcune rappresentazioni in piedi che sovrasta il dio con il braccio disteso come una grande dea, mentre lui siede nella posa del supplice figlio amante. Dopo secoli di tentativi, finalmente Zeus ottenne la mano di Era con l'inganno. La Grecia classica proseguì il rituale misterico noto come Hieros Gamos o nozze sacre tra Era o la grande dea e Zeus. Questa unificazione di una dea con un dio faceva rivivere e germogliare la terra. Demetra e Persefone. Diversi aspetti della neolitica dea gravida della vegetazione possono essere riconosciuti in Demetra, la regina del grano, così come in sua figlia Persefone o Proserpina, che è sia la fanciulla del grano che la regina dei morti. Persefone è conosciuta anche come Core, che significa fanciulla. Demetra è la dea dei frutti della terra. Veniva chiamata la verde, la portatrice di frutti, colei che riempie il granaio e colei che porta le stagioni. I minoici e i greci veneravano in Demetra l'identica dea. In alcune versioni, Poseidone violentò Demetra, mentre questa era alla ricerca di sua figlia Persefone. A dispetto della giunta indoeuropea della violenza carnale, Demetra continuò ad essere venerata come la madre del grano e anche come la madre dei morti, dato che i semi devono andare sottoterra per dare frutto. Una simile credenza deve essere stata in forte contrasto con la visione indoeuropea degli inferi come un regno cupo e tenebroso dove risiedono le anime senza vita. Persefone è rappresentata seduta su un trono con in mano una colomba, una melagrana, una torcia e delle spighe di grano. Questa immagine incarna la sostanziale differenza tra le ideologie degli abitanti dell'antica Europa e quella degli indoeuropei. Nella credenza dell'antica Europa la vita prosegue in uno stato di ibernazione, mentre nella credenza indoeuropea la vita viene meno e si estingue. I misteri di Eleusi rispecchiano prevalentemente alcune credenze dell'antica Europa. La Zoè, la forza vitale, non subisce interruzioni e permea di sé ogni cosa. Demetra e Persefone sono talvolta chiamate Demetre, un nome che mette in evidenza l'unità della loro divinità. Sono madre e figlia, ma sono talmente simili e tanto stretto il loro vincolo che le unisce, che in effetti le due immagini rappresentano due versioni di una sola dea, il suo aspetto adulto e il suo aspetto più giovanile, la madre e la fanciulla. Raffigurazioni neolitiche molto più antiche delle due dee, o delle dee ritratte come gemelle siamesi, sono visibili nei templi maltesi, che sono doppi e uno dei due è leggermente più grande dell'altro. Rappresentano le stagioni primavera-estate e autunno-inverno in un ciclo di costante rinnovamento.